gelida manina se la lasci riscaldar cercar che giova al buio non si trova ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina aspetti signorina le dirò con due parole chi son? Chi son? Son un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo! In povertà mia lieta, gran signore.